Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Torna il gorilla, il personaggio seriale creato dalla penna di Sandrone Dazieri, una delle colonne del noir all'italiana. Dazieri ha una biografia piuttosto movimentata, anche se decisamente meno rispetto a quella del suo alter ego letterario. Ha passato i primi 2 anni di università dormendo sui treni della stazione centrale di Milano, poi occupando abusivamente alcune case sfitte. È stato un attivista del movimento dei centri sociali, ha fatto il cuoco, il facchino, poi il correttore di bozze e il giornalista per Il Manifesto. Nel 99 il suo primo romanzo, Attenti al gorilla, e da qui la Mondadori lo ha chiamato a dirigere I gialli Mondadori. Ora Sandrone Dazieri fa lo scrittore a tempo pieno. Oltre ai romanzi, scrive sceneggiature per cinema e televisione. L'ultimo romanzo si intitola La bellezza è un malinteso, pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu. Da qualche anno il gorilla, un detective sui generis, lavora per un'assicurazione. Indagando su alcuni furti scopre il responsabile, ma l'uomo, subito dopo la confessione, si suicida. Il gorilla vuole vederci chiaro e suo malgrado si trova catapultato in una nuova indagine. Ma ecco come Sandrone Dazieri ci parla del gorilla. Il gorilla è un... diciamo detective, non esattamente regolare, è uno che si è inventato questo mestiere dopo una vita in cui ne ha fatti tanti altri, che ha lavorato soprattutto un po' ai margini, tirando su, come dice lui, i clienti nei bar e occupandosi di case un po' ai limiti della legalità, anche proprio come il suo modo di agire. Negli ultimi anni però era un po' stanco della sua vita alternativa e si è messo a lavorare per una grande assicurazione, che lui chiama l'assicurazione, che si occupa di casi non particolarmente brillanti o interessanti, ma che gli permettono di campare in modo tranquillo. A un certo punto, in questo ultimo romanzo, si trova di fronte però a un caso che avrebbe voluto non accettare, un furtarello in un grande magazzino, in uno spedizioniere. Lui trova il colpevole, era assicurato, quindi trova la persona che si è occupato di questa cosa, la consegna nelle mani, diciamo, dell'azienda, dicendo è stato lui. Poi torna a casa dicendo vabbè, non mi importa, è uno dei tanti casi, anche se questo si è messo a piangere quando lui l'ha trovato, eccetera, gli è dispiaciuto un po'. E la sera scopre che quest'uomo, invece di consegnarsi alla polizia, si è suicidato. E allora il gorilla non capisce perché questo uomo si è ammazzato e vuole saperlo, quindi indaga per scoprire la verità di questo suicidio, e mano a mano che indaga scopre cose sempre più complesse e scopre un mistero, un vecchio crimine dimenticato che nessuno vuole che lui si, di cui lui si, non si deve occupare, nessuno vuole che vada avanti, e quindi prima lo minacciano e poi gli succederanno altre cose, e mano a mano ci sarà la soluzione di questo mistero. Senza entrare troppo nei dettagli, in questa indagine compare anche a un certo punto il furto di un'opera d'arte. Da qui il titolo di questo romanzo, La bellezza è malinteso, che è un'opera d'arte. Esatto, è l'opera d'arte di Damien Hirst, che è un grande artista, ha fatto teschi pieni di diamanti, è quello che ha fatto lo squalo sotto formalina, esposto a New York, tagliava le mucche, insomma è uno molto interessante, a me piace molto, soprattutto perché gestisce e spettacolarizza la morte, che è un po' quello che fanno i gialli. E mi sembrava interessante mettere che tutto ruotasse nel mio romanzo attorno di fatto a un cadavere, che era questo scheletro di Damien Hirst che viene rubato. È un'opera che non esiste, La bellezza è un malinteso, me la sono inventata per la bisogna, però potrebbe esistere considerando come lavora Damien Hirst. Il gorilla ha una caratteristica fondamentale, lui ha una doppia personalità, quindi ha un problema psichico. Lui è assolutamente un disagio psichico molto forte, che ha fin dall'infanzia, quando lui si addormenta o per qualche motivo perde conoscenza, un'altra personalità prende il suo posto nel corpo, che non è uno buono e l'altro cattivo tipo Jack e Leal, semplicemente sono differenti, e uno è che lui chiama il suo socio, la sua altra personalità, e gli fa fare delle cose che spesso lui non vuole, e per gestirlo è stato costretto sempre una vita ai margini, intanto perché deve nascondersi, perché gli altri se ne potrebbero accorgere, e poi perché con quel tipo di vita che fa, la cosa migliore che ha trovato è fare questo mestiere, quindi fare il detective. Diciamo che dopo tanti anni, dopo insomma lui è stato protagonista di diversi romanzi miei, si è trovato a gestirla bene. A questo punto ha trovato un lavoro, tutto tranquillo, si alterna col suo socio, si è in modo tranquillo, si è anche sposato, il suo socio non vede di buon occhio la moglie, perché lui preferisce proprio stare sempre da solo, perché in caso di guerra nucleare lui possa scappare, il suo socio è sostanzialmente paranoico e così via, ma ovviamente questo caso di cui si occupa fa saltare anche un po' l'equilibrio tra le due personalità del protagonista. Lui è un marginale, un disadattato, un matto, tra virgolette, come si usa dire, e mi piace per questo, perché mi riconosco molto in lui. A proposito di riconoscersi in lui, il gorilla è il soprannome, ma nei romanzi ha proprio il tuo nome, cioè Sandrone Dazieri. Perché? Perché è un gioco sul doppio. Io costruisco un mondo che è il doppio del nostro, in cui le città sono le nostre ma vagamente diverse, perché mi permettono di raccontare delle storie completamente inventate, ma che però si riferiscono al nostro mondo senza la necessità di dover fare una verifica storica o sociologica. Quindi ho costruito un mondo che sia lo specchio del nostro, dove sia più facile dire delle cose che voglio, esprimere dei concetti che parlano di questo mondo dove stiamo noi. E in questo mondo doppio esistono dei doppi di quelle persone che abitano qua, e una di queste è il mio protagonista, che è come se io a un certo punto della mia vita, diciamo intorno ai 20 anni, quando ho cominciato a fare alcuni lavori, invece di fare questa scelta, io ne avessi fatto un'altra, avessi cominciato prima a fare il buttafuori, poi a occuparmi di indagini sui maniaci violenti e poi alla fine diventare un detective. Questo è lui come sarei io al posto suo. Questo mi ha permesso da un lato di raccontare delle cose dal mio punto di vista, dall'altro lato di costruire, come dire, un'identificazione molto forte, ma anche un avatar che si muove in quel mondo che contenga un po' il mio spirito. Dall'altro lato era anche un po' portare all'estremo questo gioco del doppio e della costruzione artistica, perché come quegli artisti concettuali che usano il proprio corpo, per cui si mettono lì, non so, si impiantano dei pezzi di ferro, piuttosto che si fanno operare, come Orlan, come Stelarc, che erano famosi negli anni 80, che si modificavano il proprio corpo, diventavano il loro corpo un'opera d'arte. Io ho fatto la stessa cosa con la mia identità. Chi legge i miei libri non sa dove finisce la mia identità vera, dove comincia quella del mio personaggio, dove siamo diversi, dove siamo simili, e spesso ci confonde. E questo, in questo gioco è la mia installazione artistica, sostanzialmente. Nei tuoi romanzi c'è spesso la descrizione molto anche cruda, dura, della violenza, della vita, insomma, di questo gorilla, delle indagini che fa. Mi ricorda un po' il personaggio di Philip Marlowe, quindi insomma Raymond Chandler. Effettivamente ti riferisci a quello? Diciamo, io sono figlio di quella narrativa lì, poi certo non posso raggiungere la qualità dei maestri, però io tra il giallo e il noir o l'hardboiled, io sono sempre stato più dalla parte dell'hardboiled. Il giallo c'è la detection all'inglese che risolve l'indizio, ma tutto in un ambiente sterile in cui tutto viene svuotato di senso, non mi interessa. Mi interessa di più invece raccontare un pezzo di mondo che parte dalle mie necessità, dai miei bisogni, dalle mie sofferenze, dai miei desideri e dalle cose che mi preoccupano, mi fanno star male, mi fanno star bene, insomma dalla mia esigenza di raccontare una storia. Per questo ho scelto il noir come cifra, quindi ho costruito un personaggio che fosse questo, sostanzialmente un perdente però con un'etica, con una morale, che vuole cercare la verità laddove gli altri la negano, e che per fare questo ovviamente subisce dei problemi fisici, perché lo picchiano, gli sparano e tutto questo fa parte un po' delle regole del gioco. Ma a differenza delle regole del gioco classiche, lui invecchia e cambia. Lui, libro dopo libro, si porta addosso i segni di quello che gli è successo prima. Cioè, se gli sparano in un libro non è che quello dopo sta bene, ha male alla spalla o dove l'hanno sparato. Se sono passati 12 anni da quando l'ho inventato, lui è più vecchio. Ha cominciato che aveva poco più di 30 anni, adesso ne ha 45 e comincia a fare delle scelte un po' diverse, si è sposato, sta pensando a prendersi una casa in campagna, quindi è uno così. E questo mi piace, perché pur essendo figlio del genere noir, ha anche delle caratteristiche di realtà, è un essere che potremmo incontrare e riconoscere. Abitudini di scrittura, vizi e virtù di Sandrone Dazieri. Sono tanti, i vizi sono tanti, le virtù poche. Abitudini di scrittura, io scrivo sempre perché è il mio mestiere, e lo faccio, devo dire, con lo spirito operaista che viene dalla mia infanzia. Mi sveglio la mattina alle 8 e scrivo. Non sempre scrivo il romanzo, il nuovo romanzo, a volte non so, dei racconti che devo scrivere, oppure delle sceneggiature, perché lavoro ultimamente parecchio con la televisione, il cinema, che è un buon modo per raggiungere tante teste contemporaneamente, però è una roba costante, lavoro sempre, non lavoro anche il weekend. Adesso finirò questa intervista, andrò a casa a lavorare, quindi è il mio stile, non saprei farne senza. Peraltro quando non lavoro mi annoio, è una mia caratteristica. E questo era Sandrone Dazieri, ora in libreria con una nuova avventura del gorilla, La bellezza è un malinteso, pubblicato da Mondadori. Vi ricordo come sempre, se volete scriverci, il cacciatore di libri @radio24.it, ci trovate anche su Facebook. Se volete invece riascoltare questa o le altre puntate, www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.